Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. Questa, ve lo preannuncio, prima di Natale l'ultima puntata che facciamo in diretta. Domani per la vigilia vi proporremo un meglio delle nostre trasmissioni, poi puntate speciali la prossima settimana. E allora, per concludere in bellezza e per andare dritti verso le festività natalizie, oggi comunque abbiamo anche una puntata speciale, un po' curiosa, un po' fuori dai canoni tradizionali della nostra trasmissione. Partiamo con qualche cifra per introdurre il tema che affronteremo stamattina. Quasi 1 miliardo di euro sarà speso per la cena della vigilia di Natale, incentrata sul pesce, che registra proprio in questi giorni il consumo più elevato dell'anno. La parola d'ordine, secondo Coldiretti, per salvare tasche e ambiente, sarà scegliere prodotti made in Italy. E questa è una prima indicazione, ma si fanno già le previsioni, non le ha sta facendo solo Coldiretti, ma tante altre organizzazioni, su quanto si spenderà per imbandire la tavola durante le festività natalizie. E noi abbiamo deciso di riproporre una trasmissione esattamente come abbiamo fatto un anno fa, e ricordiamoci che, mi ricordo insomma, che vi aveva divertito parecchio, dedicata al budget che avete fissato per il menù della vigilia, del giorno di Natale, per il cenone del 31 e per Capodanno. E sì, come al solito noi torneremo di sicuro dalle vacanze con qualche chilo di troppo e anche con un portafoglio un po' più alleggerito, ma noi oggi non pensiamo a questo, almeno non pensiamo completamente al lato negativo della questione, cerchiamo di non pensarci, regaliamo, vogliamo regalare a voi, quindi ai nostri ascoltatori, una trasmissione più light, come sicuramente non saranno i nostri piatti, che invece saranno abbastanza pesanti. E oggi costruiamo qualche menù a prezzo ragionevole. Intanto io vi invito a farlo all'800240024, raccontateci un po' cosa ci sarà sulle vostre tavole nei prossimi giorni e se avete pensato di organizzare il menù delle feste andando al risparmio, se in questi giorni insomma non penserete a questo aspetto e ricercherete un menù di qualità anche spendendo qualcosa in più rispetto al solito, oppure se riuscirete a contenere il budget e comunque non trascurando ovviamente l'aspetto qualitativo dei piatti che preparerete nei prossimi giorni. Noi stamattina abbiamo messo appunto a disposizione dei nostri ascoltatori ancora una bella squadra di esperti del settore. Io saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina Luciano Tona, direttore didattico di ALMA, che è la Scuola Internazionale di Cucina, il più autorevole centro di formazione della cucina italiana a livello internazionale, centro fondato da Gualtiero Marchesi, sede a Parma. Dottor Tona, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie di essere con noi. Anche lo scorso anno vi avevo coinvolto, non c'era lei, per preparare i menù di Natale, Vigilia, 31 e Capodanno, e quindi stamattina la farò divertire facendo la stessa cosa, ma naturalmente ogni buon piatto va accompagnato anche da un buon bicchiere, e quindi siccome la squadra di ALMA quest'anno si è arricchita anche della divisione Wine Academy, saluto Andrea Sinigaglia, responsabile di questa componente di ALMA. Sinigaglia, buongiorno e grazie anche a lei di essere con noi stamattina. Buongiorno a lei e a tutti. E anche direttore operativo di ALMA, di tutta la scuola appunto di cucina. Poi avremo con noi Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, perché anche Coldiretti ha organizzato e ha proposto un menù low cost. Tra l'altro è un menù interamente tricolore a base di pesce, e ci sono delle ricette anche che sono state fornite dall'organizzazione appunto del mondo agricolo, e quindi ci faremo dire appunto com'è composto questo pranzo. E poi ci collegheremo con Davide Paolini, che è il nostro gastronauta, che sicuramente io qualche trasmissione l'ho persa perché quando lui il sabato va in onda devo fare anche altro, ma di sicuro si sarà occupato anche delle festività delle famiglie italiane, di quello che naturalmente prepareranno se decideranno di passare ovviamente le vacanze in famiglia, perché poi c'è anche chi frequenta i ristoranti in questi giorni e magari va cercando qualcos'altro. E allora insomma abbiamo un bel po' di cose oggi da raccontare. Vi ricordo che ci potete aiutare ad arricchire, a divertire di più la nostra trasmissione stamattina, 800240024 per chiamarci, oppure scriveteci al 349-238-6666. Un'occhiata alla borsa e poi partiamo con i menù di Natale e Capodanno. La borsa oggi è contrastata perché c'è Parigi che continua ad essere negativa da questa mattina e perde lo 0,27%, poco mosse Francoforte e Londra, appena positive circa più 0,07 più 0,09% rispetto, mentre Milano più 0,6%, da stamane la miglior piazza d'Europa, continua ad avere questa tendenza positiva. che la sta mantenendo. I temi che distinguono l'Istituto di Piazza Affari sono un po' gli stessi da qualche giorno, e anche oggi acquisti abbastanza sostenuti su Fondiaria, più un 88% per il gruppo. È stato rinegoziato il debito con un pool di banche, la rinegoziazione si è conclusa ieri definitivamente, per cui titolo in acquisto, così come Fiat, per le ragioni che abbiamo spiegato nel nostro giornale radio. Gli incontri tra Sergio Marchionne, il sindacato e i sindacati appunto per la revisione del contratto, per il futuro di Mirafiori, comunque anche c'è la prospettiva di dell'ingresso dello spin-off, che in borsa sarà formalizzato il 3 gennaio. Fiat Industrial appunto si divide dall'auto, e quindi titolo anche in questa prospettiva positivo questa mattina. Popolare di Milano più 1,73, abbiamo un rialzo anche di 1,5 per Parmalat e per Atlantia. Il quadro negativo invece vede stamattina particolarmente penalizzati Tots, che da una settimana ha fatto il suo ingresso nel principale paniere di Piazza Affari, oggi perde lo 0,6%, negli ultimi giorni era andato bene il titolo. Anche Diasorin ha fatto il suo ingresso sul FTSE MIB lunedì, oggi perde lo 0,3%. Il suo ingresso nel FTSE MIB lo aveva fatto anche Enel Green Power, che era partita male ai primi giorni della settimana, oggi recupera mezzo punto. Euro su dollaro a 1,31, questo è tutto per la borsa. Oggi arrivano molti dati dagli Stati Uniti, forse oggi Wall Street darà una direzione più precisa anche ai listini del vecchio continente. Noi lasciamo la borsa, andiamo invece adesso ad un salvadanaio speciale oggi dedicato ai menù di Natale e Capodanno. C'è chi, come la Coldiretti, sostiene che gli italiani spenderanno circa quanto il 2009, e cioè 2,8 miliardi, lo 0,3% in più dell'anno scorso. Chi, come la FIPE, prevede un aumento dell'1,2% delle spese alimentari, e quelli che passeranno la vigilia al ristorante pagheranno un conto di 43,50 euro in media a testa. E infine c'è chi, come la Confesercenti SVG, vaticina che l'esborso pro capite per cena e pranzo natalizio diminuirà del 9%, tornando così ai livelli pre-2003, 109 euro. Ma cosa ci sarà sulle tavole degli italiani per Natale? Carne e spumanti sono le voci chiave e rappresentano il 25 e il 20% del totale. Il 15% invece se ne andrà per panettoni, pandori e dolci vari. Protagonista della cena della vigilia sarà invece il pesce, per il quale si spenderanno oltre 500 milioni di euro. Tra le spese maggiormente richieste c'è la spigola nazionale, seguita naturalmente da vongole, cozze, calamari e molluschi. 800 24 00 24 il numero verde che, se oggi vorrete, vi darà l'opportunità di tenere questa linea diretta con noi per raccontarci che cosa avete intenzione di preparare per le feste, di cosa avete intenzione di mettere sul tavolo a Natale e Capodanno, se farete degli acquisti e dei pranzi all'insegna del contenimento dei costi, ma comunque del mantenimento della qualità, perché comunque l'italiano alla qualità non rinuncia. Lorenzo Bazzana, Coldiretti, comincio con lei, buongiorno. Buongiorno. Avete preparato quest'anno il menù low cost, quello di Coldiretti appunto è interamente tricolore a base di pesce per 4 persone a 26 euro, quello suggerito dall'associazione, poi se vuole ce lo dirà lei, ma io ho anche un'inchiesta dello scorso anno vostra che ribadiva come 9 italiani su 10 trascorreranno la vigilia e il pranzo di Natale a casa con la famiglia, con gli amici più cari, i parenti più stretti, e gusteranno i piatti della tradizione territoriale. Non credo che dall'anno scorso siano cambiate molte tendenze, quest'anno che cosa avete previsto? Ma diciamo che le tendenze sono ancora quelle, come si diceva nel servizio, la previsione è quella che circa il 62% degli italiani manterranno inalterata quella che è la loro spesa. La cosa interessante è che da un sondaggio che abbiamo condotto sul nostro sito risulta che circa il 45% dei soggetti che appunto hanno risposto a questo sondaggio hanno dichiarato che rimarranno in cucina dalle 3 alle 5 ore per preparare appunto il menù della festa. Quindi questa può essere, diciamo, un'indicazione interessante, forse un fatto anche determinato dalla crisi, ma si tende a recuperare un momentino di manualità, di operatività, e quindi impegnare un pochettino più di tempo nella preparazione di questi piatti per la vigilia o per il Natale, considerando che è anche un momento di socializzazione, perché comunque la famiglia si può riunire e organizzarsi per aiutarsi l'un con l'altro attorno alla tavola, in cucina, per preparare questi piatti. Anche perché è possibile fare a mano quasi tutto. Quello gastronomico, peraltro, sempre Coldiretti appunto lo sostiene abbastanza diffusamente e lo aveva fatto anche l'anno scorso, non so se quest'anno è stata ribadita anche questa tendenza e questo orientamento, dottor Bazzana, che appunto quello gastronomico è tra i regali preferiti preferiti degli italiani perché ha il minor tasso di riciclo, anche per l'affermarsi di questo stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola. Sì, sicuramente è una tendenza che si riconferma, proprio perché, come si diceva prima, c'è questa necessità di una spesa utile, e quale spesa più utile appunto di un buon prodotto enogastronomico del nostro paese, che appunto può essere utilizzato sia per queste festività, ma può essere anche utilizzato successivamente appunto nella quotidianità e rappresentare sicuramente un regalo utile, importante e soldi che sicuramente non vanno spesi male. E intanto, siccome tra l'altro c'è questa iniziativa di campagna amica di Coldiretti che sta proseguendo con grande successo su tutto il territorio nazionale, poi ci racconterà Bazzana se in vista delle festività natalizie sono stati più frequentati questi mercati degli agricoltori, chiamiamoli così, appunto proprio per privilegiare l'aspetto qualitativo soprattutto della frutta e della verdura che si metteranno a tavola in questi giorni. Luciano Tona, direttore didattico di Alma, le racconto che cosa era successo lo scorso anno quando vi avevo coinvolto nella nostra trasmissione. C'era un vostro chef, un amico ormai di Salvadanaio, perché poi lo avevo coinvolto anche in altre occasioni, Cristian Broglia, al quale avevo chiesto appunto: ci prepari un menù per la vigilia o per il giorno di Natale, appunto chiedendogli di fare un unico lavoro, no? E lui prima della trasmissione mi chiese: no, ma dimmi bene, te lo devo preparare per il giorno della vigilia, per il giorno di Natale, per Capodanno? Dico: ma fanne uno che ci possa così dare la misura di un menù di risparmio per le famiglie, sempre ovviamente all'insegna della qualità, come dicevo. Insomma, lui era abbastanza stupito della mia domanda e io ero stupita della sua riflessione. In realtà, come dire, i menù sono rigorosamente separati per i professionisti del settore, no? Tona. Sicuramente l'offerta deve essere diversa. Chi fa questo mestiere di professione cerca sempre di alternare, di costruire un menù con un concetto logico di non ripetizione, anche perché poi il palato di conseguenza perde nell'essere stimolato, nell'interagire stesso per stare a tavola. E quindi il rischio è che ti fai tre pranzi tra la vigilia e il giorno di Natale e mangi sempre le stesse cose. Quindi la possibilità di costruire dei menu specifici ti danno la possibilità di non mangiare cose uguali. E l'altra cosa importante è che ci sono delle tradizioni che secondo me vanno rispettate, ci sono dei classici, no? Come le vongole la vigilia e il tappone del giorno di Natale. Ci sono dei classici che mantengono e che differenziano le varie menù. Quindi insomma, almeno durante la festa sicuramente l'italiano non è frettoloso di portare a tavola la prima cosa che trova, ma ci si pensa per tempo, proprio magari per alimentare un po' il calore di queste giornate e magari per mettere da parte un po' i problemi che purtroppo tanti e troppi ci hanno accompagnato quest'anno. Io mi devo ho ancora un minuto di tempo. È vero, dottor Tona, che uno degli esami che gli apprendisti cuochi devono affrontare per la vostra scuola è proprio la preparazione di un menù da 10 euro? No, perché poi qui andiamo a parlare anche un po' di costi, è vero? Devono preparare un menù per 4 persone con un food cost di 10 euro. Ecco, che naturalmente magari non sarà possibile, non sarà un budget possibile per Natale, perché quantomeno qualcosa in più lo dobbiamo spendere. Una volta l'anno ci si può anche sforzare a fare qualcosa di più. Tona, ce l'ha preparato un menù per noi per oggi? Ne abbiamo preparati 3, uno per ogni. Giustamente, perché sennò che cosa abbiamo. Ecco, benissimo. Allora adesso io la lascio riflettere, lascio incuriosire anche i nostri ascoltatori, che possono, se vogliono, prenotare i loro interventi all'800240024 oppure scriverci al 349-238-6666. Raccontateci quanto avete intenzione di spendere per allestire il menù di Natale o della vigilia o del 31 o quello di Capodanno. Poi naturalmente vi daremo anche suggerimenti giusti per il vino, lo spumante da accompagnare a questi pasti e quanto spendere appunto ragionevolmente quest'anno, perché per qualche famiglia comunque non sarà proprio un Natale lietissimo, perché insomma c'è una bella crisi occupazionale nel nostro paese, ma volendo anche lasciare da parte un po' questi problemi almeno in queste giornate cercheremo di darvi qualche indicazione utile. A tra poco. Salva Danaio. Puntata particolare oggi a Salvadanaio dedicata al menù delle feste e poi insomma un tema originale per modo di dire, perché in ogni caso si tratta di spese delle famiglie italiane in qualche maniera quest'anno, spese che saranno un po' condizionate da una crisi che morde ancora e quindi qualche famiglia forse, anche se in genere durante le festività si tende un po' ad accantonare il problema, si tendono ad accantonare le preoccupazioni, però magari qualche famiglia un po' di budget ridimensionato lo porterà sulle tavole per la vigilia di Natale, a Natale, il 31 e a Capodanno. Allora, quale scelte di consumo state facendo quest'anno? Cosa porterete sulle vostre tavole? Ovviamente c'è un grande aspetto, un aspetto molto importante, quello del privilegiare la tradizione italiana. E allora io saluto e ringrazio di essere con noi Davide Paolini, il nostro gastronauta, perché chissà già quante puntate avrà fatto su questo argomento. Davide, buongiorno. In treno, lo abbiamo disturbato, ma no, noi... non ho fatto puntate, ho fatto semplicemente una puntata sul panettone, addirittura parlando anche di panettone del Canton Ticino. Ah. Quindi di puntate sul pranzo di Natale non ne ho fatte, ne farò una che andrà in onda il 2 gennaio, ma sarà semplicemente sui recuperi. I recuperi di quello che resta del pranzo di Natale dell'ultimo dell'anno, quindi diciamo quel sabato lì parleremo di questo, come recuperare ciò che viene buttato o che dovrebbe venire buttato, in realtà potrebbe venire salvato. Comunque insomma quello che avanza, ma la sensazione secondo i tuoi monitoraggi, che sicuramente per curiosità professionale Davide avrai fatto, cosa ci sarà sulle tavole degli italiani quest'anno a Natale e Capodanno e qual è secondo te l'orientamento di spesa che manifesteranno? Ma l'orientamento di spesa è una cosa molto positiva, che sempre di meno consumare straniero, consumare salmone, consumare ananas, consumare tutta questa serie di aragoste che arrivano dall'estero, tutto quello che è fuori stagione. Io credo che la tradizione significa anche stagionalità e quindi rispettare il ritmo delle stagioni e i prodotti delle stagioni. Vedo che c'è un ritorno a dei piatti tradizionali, il problema è che sempre di più però mi rendo conto che gli italiani il giorno di Natale vanno al ristorante e sempre meno mangiano a casa, e questo secondo me è un aspetto così, non dico negativo, però è un aspetto che cambia un po' la tradizione, perché non tutti i ristoranti italiani fanno un menù tradizionale, molti ovviamente vanno anche sulla fantasia dei ristoratori, e quindi io credo che la tradizione sia rispettata nelle osterie e nelle trattorie, un po' meno in quei ristoranti creativi. Davide, un'ultima domanda, poi ti lasciamo al tuo viaggio, e questa è una cosa che ti avevo chiesto anche l'anno scorso, e mi ricordo che il tuo ragionamento ci aveva portato sicuramente al panettone, ma se c'è una cosa a cui non si rinuncia per niente al mondo è la tavola proprio eccezionalmente bandita durante la festa. Che cosa non può mancare sulla tavola di questo periodo? Ma io guarda, diciamo che due settimane fa sul Sole ho scritto un articolo che andando a scoprire un po' quali sono le tradizioni in giro per l'Italia appunto di Natale, e ho trovato un comune denominatore che è la pasta. Può essere il pasticcio al sud, può essere il timballo al sud, ma possono essere i cappelletti, i tortellini, i marubini al nord. Io credo che quello che lega l'Italia all'identità anche di questa festa è la pasta. Ovviamente la pasta della festa, quindi sono i cappelletti in brodo di capone, fatti a mano magari. Sì, sono i tortellini, ma come dicevo sono anche il pasticcio e il timballo. Piatti molto lunghi e sempre molto più difficili da farsi, però ho sentito che ancora c'è qualcuno che li fa, li prepara e ha il tempo per prepararli almeno in queste feste. Ecco, io credo che l'identità sia data da questo, poi ovviamente anche il panettone ormai anche al sud è un prodotto che diciamo un dolce che ha preso e quindi ci sono degli ottimi produttori, però credo che sia la pasta l'indicatore principale. Mamma mia Davide, ho una fame, io tra l'altro sempre tutti i giorni a quest'ora inevitabilmente, oggi davvero con questa trasmissione la enfatizzo a dismisura. Grazie Davide Paolini, buon Natale, allora, buon anno. Buon Natale a tutti i radioascoltatori. Grazie molte. Allora vi faccio sentire Bruno da Roma, che è il nostro primo ascoltatore, sì, che ci chiama oggi. Bruno, buongiorno, che ci fa il suo menù. Poi guardi, sai che faccio Bruno? Mi faccio aiutare da Andrea Sinigaglia di Alma Wine Academy e le faccio mettere il vino adatto al suo menù oggi accanto ai piatti che ha preparato. Sentiamo poi che suggerimenti ci dà. Ci dica un po' quanto spende e cosa sta preparando. Massimo 20 euro per 4-5 persone. Allora, 1,5 chili di pollo. 1,5 chili di pollo? Sì, 200 grammi di mandorle sbucciate. Sì. 0,5 chili di carote. Sì. 3 zucchine. Mannaggia che non la sentiamo benissimo. Quindi insomma pollo, verdure, fino adesso abbiamo sentito 0,5 chili di carote. Sì. 300 grammi di zucchine. Sì. 500 grammi di gamberi anche congelati. Gamberi, ok. Beh, poi, sì. Allora, il pollo lo faccio, tutti dicono taglio a pezzettino, lo faccio bollire ad acqua, senza olio. Una volta che si è asciutto, che si è arrostito un po', ci metto le mandorle dentro, un po' di chiaro, un po' di latte, e lo metto da parte. Poi faccio un pollo dentro la pentola, lo faccio bollire un po', senza olio, ci metto delle carote, una patata, lo faccio bollire per un 20 minuti, mezz'ora, ci metto un po' di curry dentro, un po' di latte di cocco, senza olio, e lo lascio. È una cosa un po' esotica, è molto poco italiana però, Bruno, no? Insomma, mi sembra un piatto quasi thailandese, cinese. È vero, ma io, siccome io cucino cinese, thailandese, coreano, vabbè. No, ma lo faccio solo per gli amici, non ho ristorante, non niente. Senta Bruno, no, ma senta una cosa, quindi questa è la cosa più originale che lei preparerà per il giorno di Natale, mi sta dicendo? Ma perché no? Va bene, e insomma ognuno fa le scelte che ritiene più opportune per la sua famiglia e poi però preparerà qualcosa di diverso per il 31, per il primo. Ma tutto senza olio, così si rimane leggero. Questo insomma è l'obiettivo, non sarà contento Bazzana di Coldiretti perché tra l'altro noi italiani produciamo un olio buonissimo, però Andrea Sinigaglia, Bruno ha scelto un menù abbastanza particolare e però insomma andrà pure accompagnato da del vino bianco o rosso, insomma qua cosa ci mettiamo e che cosa spendiamo per accompagnare dignitosamente questo piatto del nostro ascoltatore di Roma. Sì, come diceva lei, è un piatto dai sentori un po' esotici, molto freschi, molto light. Io direi che se volessimo stare su una bandiera della nostra enologia, un prosecco potrebbe essere perfetto, perché è un vino altrettanto leggero, visto che l'ascoltatore insisteva sulla leggerezza, con questi sentori fruttati importanti e che può accompagnare un pollo così cucinato e avere anche la bollicina, che è sempre sinonimo di festa. E se prima del torno a Luciano Tona, prima di questo pollo preparato da Bruno Tona, ci dovessimo mettere un primo, insomma che cosa sarebbe corretto associare al pollo, alle mandorle, al curry e con i gamberi appunto il nostro ascoltatore? Sicuramente dei vegetali, un'insalata che credo sia sempre un buon inizio di un pasto, un'insalata di vegetali oppure un'insalata di pesci bianchi o pesci leggeri. Le leggo questo menù di Alessandra Tona: pranzo di Natale, orzo perlato allo zafferano, petti di pollo al curry, qua il curry quest'anno va alla grandissima, spinaci al burro, insalata di arance, dolci tradizionali, costo più che ragionevole. Buone feste a tutti, anche a lei Alessandra Tona, le piace questo? Molto di più dell'idea di fare un solo piatto come il pollo elaborato, ma è sempre un elemento solo. Questo è già più articolato e costruito anche abbastanza bene. Tona, una cosa che non manca sicuramente durante le feste di Natale ed è soprattutto il piatto tipico dell'ultimo dell'anno, perché porta soldi secondo la tradizione, sono le lenticchie, no? Come le cuciniamo quest'anno? Ma le cuciniamo forse nel modo più classico, cotte lentamente, direttamente partendo dalle lenticchie secche, con un'aggiunta di acqua fredda a bassa temperatura, con degli elementi vegetali come scalogno, del sedano e del porro, e si fanno cuocere direttamente così, in modo che tutti gli elementi nutritivi non si vadano a disperdere nella rigenerazione a freddo che si fa solitamente sui legumi secchi. E quindi c'è un passaggio che pochi fanno, ma cotta direttamente è molto meglio che non bagnata prima. Ecco Tona, c'era un aspetto che mi ha molto incuriosito dell'ascoltatore che ci ha presentato prima il suo menù, è quello di non utilizzare assolutamente l'olio. Io vorrei un po' sgombrare il campo dall'equivoco di considerare ancora erroneamente questo alimento troppo grasso, e quindi chiaro che non si può esagerare nel condimento, ma questo vale per tutte le cose, come nell'esagerazione appunto che coinvolge tutti quanti i campi. Ma le sembrava convincente una ricetta in cui l'olio non si dovesse presentare per niente? Assolutamente no. Perché i grassi sono fondamentali in ogni preparazione, perché il grasso è quello che veicola gli aromi e i profumi. Gli aromi si fissano molto meglio in un grasso che non in un liquido, e quindi è importantissimo avere un grasso. Benissimo. E anche per trasferire un apporto energetico che quando uno si alimenta lo fa per quello. Ricordo il numero verde 800240024 per le chiamate degli ascoltatori, per la presentazione se volete del vostro menù. Vedo un po' di messaggi sciocchi stamattina, qualcuno che è abbastanza incuriosito dal fatto che abbiamo scelto di affrontare un tema come questo, ma insomma sono soldi, e se ci arriva qualche suggerimento da qualche professionista del settore per comporre un pasto di totale qualità nel giorno di Natale spendendo qualcosa di ragionevole, perché mai non dovremmo anche noi affrontare un tema di questo tipo. Andrea Sinigaglia, Alma Wine Academy, e accanto alla lenticchia che tipo di vino mettiamo? Sì, io volevo, se lei permette, fare una premessa, visto che stiamo parlando di salvadanaio, stiamo parlando di costi e via discorrendo. Noi quello che insegniamo qui è stare davanti al vino, comunicarlo attraverso i nostri corsi e i nostri master. Quello che secondo me va sottolineato, non vorrei essere controcorrente o fuori tema, è che probabilmente del vino bisogna stare attenti a come lo si consuma più che al prezzo unitario della bottiglia, per cui mi sentivo di dare un questo paio messaggio di che a cui aderiamo completamente. Sì, il primo messaggio è sicuramente che Natale è un momento dove si ricrea la famiglia, oggi così difficile da mettere insieme, quindi si crea una tavolata. Un consiglio interessante potrebbe essere provare un grande formato, per cui andare su bottiglie più grandi, da 1,5 litri, da 3 litri, e condividerle. Condividere una bottiglia grande a volte porta a un consumo molto più morigerato, perché è la stessa bottiglia che va divisa fra tutti e crea anche una socializzazione molto diversa. L'altro consiglio, anche qui vorrei non essere frainteso, è che forse un piccolo investimento a volte aiuta a risparmiare molto. Intendo dire il bicchiere. A volte si comprano grandi vini o si comprano vini normali, ma non si dà abbastanza valore al bicchiere in cui si consumano durante queste feste. Effettivamente è la prima volta che ci rifletto anch'io, a parte diciamo il momento folcloristico in cui naturalmente lo spumante lo mettiamo nel calice adeguato, ma insomma quello è il massimo della riflessione che per esempio io faccio, Sinigaglia. Invece esatto, bisogna essere un po' più accurati anche in quello. Io direi che ci può essere anche molto semplice e diretti, non occorre avere tutta una serie di bicchieri in casa come abbiamo noi quando facciamo le lezioni, ma un buon calice di media grandezza, ampio, può essere un calice che può seguirci a tutto pasto e farci cambiare anche diverse tipologie di vino, ma è nello stesso tempo uno strumento che ci fa stare davanti al vino senza banalità. A volte questo diamo tanto peso a 1 euro in meno, 1,5 euro in meno alla bottiglia o a prendere vini molto economici e poi il modo che abbiamo di servirli è in realtà è un grande inadeguato. Tranello. No, tra l'altro è anche mi permetto, potrebbe anche essere un bel regalo di Natale, no? Investimenti per gli appassionati che magari accompagnano il pasto con dei vini di qualità, e se sono degli appassionati, qualche amico che non ha avuto magari un'idea per un regalo giusto, questa potrebbe essere. Sinigaglia, io la interrompo solo perché adesso devo andare a suggerimenti per chi è in viaggio, ma su tutto questo torniamo tra poco. Salvadanaio. L'ultima parte di Salvadanaio, oggi menù delle feste e naturalmente costi ragionevoli, budget ragionevoli. Saluto Irene che ci scrive: tortellini fatti da me in brodo di cappone, anatra all'arancia, pomme parmentier e insalata dolci tradizionali. Grazie Irene, auguri anche a lei. Lorenzo Bazzana di Coldiretti, l'ho preannunciato all'inizio ma non abbiamo ancora dato il vostro menù low cost tricolore a base di pesce per 4 persone a 26 euro. Cosa ci mettiamo dentro? Ma io prima mi devo riprendere dallo sconvolgimento della prima proposta che sì, eliminava l'olio italiano, che è una cosa che... Ma ha sentito come ho subito preso le sue difese? Io già avevo avvertito il suo disappunto. Di questo, perché è uno degli elementi che ci invidia tutto il mondo. Per infatti. Cui è un po' curioso. Però era un po' come dire estremista la ricetta perché, del nostro ascoltatore. Anche perché l'olio italiano a crudo su un piatto appunto anche elaborato, sicuramente una cosa che lo mantiene leggero, non è assolutamente una cosa pesante. No, tra l'altro guardi, le leggo questo messaggio di Daniela che dice: io sarò a Capodanno ospite da amici, come regalo porto olio toscano e salame della cinta senese, per cui come vede, ecco, non tutti la pensano così, anzi molto pochi credo. Ci dà il menù low cost di pesce? Sì, lo scopo appunto di questo menù low cost era quello di riproporre un qualcosa nell'ambito della tradizione che però appunto potesse guardare un momentino a quest'occhio di riguardo per la spesa. Dicevamo 4 persone a 26 euro è un qualcosa che ha elaborato appunto la nostra impresa pesca Coldiretti che propone appunto un menù fatto di prodotti italiani, quindi un antipasto con le alici marinate di cui appunto si viene a calcolare una spesa di 6 euro. Quindi cozze alla tarantina per 3 euro, un primo con spaghetti alle vongole 9 euro, il piatto forte sarebbe rappresentato dalla zuppa o bordetto di pesce 8 euro, che è fatto appunto da triglie, calamari, moli, poi però, mi sta facendo morire, guardi, poi io sono anconetana dove il brodetto di pesce appunto è un piatto. Dobbiamo far ballare l'occhio e vedere un momentino cosa possiamo trovare e quali sono i prezzi appunto di questi prodotti. Però insomma il tutto appunto per 26 euro rispettando appunto questa tradizione di una cena della vigilia appunto sulla base di pesce. Tra l'altro avete fatto anche il raffronto con un menù invece che possa essere, che sia completamente straniero, con l'antipasto di caviale russo, gamberetti cinesi che qui sono agghiaccianti il solo pensiero, il salmone narvogese invece un po' più diffuso, magari l'aragosta australiana, anche questa qua avete calcolato che addirittura passando dal pesce azzurro al caviale straniero quanto aumenta il budget? Si può arrivare fino a 470 euro, per cui diciamo che chi ha qualche problema, poi magari non è proprio detto che la qualità, perché poi alle volte se è quello d'allevamento, se è quello però il gamberetto cinese adesso, cara grazia, almeno questo. Allora, vi faccio sentire il menù di Valerio da Milano, perché aveva dei ravioli di coniglio. Valerio, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, premesso che è molto artigianale il tutto, e premesso che in 5 non sto dentro in 60 euro per tutti e 5. È molto artigianale, perché il vino, per esempio, è il vino lo imbottiglio io, che prendo dell'ottimo vino nei colli di piemontesi, sì, e lo imbottiglio io nella stagione. Basta giusta, che ci metti i bicchieri giusti, perché poi Sinigaglia si arrabbia, però no, ci dica, ve le sto scherzando. Noi facciamo l'antipasto con le tartine già pronte, che ogni tanto le mangiamo e sono anche molto buone, e poi un po' di patè in gelatina, che anche a noi piace, è un'altra cosa che costa, non è affatto cara, è roba tutta italiana. Poi, mia moglie è bravissima, ha imparato dalla mamma piemontese, e fa dei ravioli di coniglio. Il coniglio viene cotto, poi disossato e messo insieme ad del radicchio cotto, saltato in padella, si amalgama tutto e si fanno sti ravioli che sono per il nostro gusto buonissimi. Poi, dopo questo mangiare, tante cose non servono. Noi facciamo un bello zampone con le lenticchie. Nelle lenticchie, dentro nella padella di terracotta, vengono cotte queste lenticchie piano, piano, piano, con tanto pomodoro e un po' di aromi vari. E poi ci si mette lo zampone fumante, bello caldo. Basta. Come si direbbe? E chi ci ammazza, Valerio? Prezzo ragionevole, una bella festa in famiglia e un menù qualitativamente indifferente. Poi conclude con il panettone, con il dolce della tradizione. Il panettone, e mia figlia farà la crema tipo Chantilly da stornare. Benissimo. Con il panettone. Valerio, grazie. Grazie. Tanti auguri a lei, alla sua famiglia e al suo bel menù. Grazie molto. Tona, le è piaciuta la ricetta? Sì, molto interessante, tipica piemontese potrei definire. Anche se lui sta a Milano. Io vorrei anche fare un piccolo così inciso sulla Chantilly. Sa che in Italia la Chantilly viene definita una miscela di panna e crema pasticcera, ma in realtà la Chantilly originale è solo panna montata con zucchero a velo. Quindi è una... Un dolce veramente che costa zero. Costa zero. Ecco, sì. Le leggo un altro menù. Tona, passatelli in brodo, mazzancolle spadellate al prosecco e radicchio tardivo, arance allo zucchero, prosecco, caffè. Mi sembra un menù assolutamente dignitoso. Costerà un po' la mazzancolla. La mazzancolla, però, insomma, sempre meglio del gamberetto cinese, direi. Sicuramente. Infatti. Sicuramente. Allora, da chi andiamo? L'ultima testimonianza è quella di Gabriella da Torino. Gabriella, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci faccia sognare. Sì, allora, io comincio con il salmone coi crostini perché diciamo che forse è quello che è più leggero. Poi con un'insalata russa abbondantissima, perché tenga presente che noi siamo sempre un 16-20 persone, e il mio menù si adatta ai gusti un po' di tutti, per questo che è così vario. Poi faccio un patè di tonno con i pistacchi, i tomini al verde, i peperoni arrostiti. Tra l'altro i peperoni li faccio ad agosto a fine stagione, poi li congelo e quindi li utilizzo poi in questa stagione. Insomma, si prepara per tempo. Esatto. Poi faccio i peperoni, quelli lì piccolini, molto piccanti, ripieni, alcuni con le acciughe e i capperi, alcuni con il tonno. Che meraviglia. Poi faccio due torte salate, una tricolore che ha come base, diciamo, gli zucchini, e l'altra invece che somiglia molto a una parmigiana, però anche la pasta sfoglia. Poi insomma ci vogliono i cappelletti in brodo. Certamente. Li fa lei, Gabriella, a mano? O li prende già fatti? I cappelletti è l'unica cosa che compro, devo dire la verità. Tutto il resto faccio da sola proprio. Poi, siccome mi vogliono a tavola, gli altri anni facevo gli ossibuchi, eccetera, quindi dovevo preparare fino all'ultimo, mentre gli altri mangiavano, lei stava in cucina, adesso ha detto basta. Allora quest'anno giustamente ho deciso di fare il vitello tonnato che tanto piace a tutti e così posso prepararlo prima. Andiamo al dolce rapidamente, Gabriella? Torta sfoglia con crema pasticcera, panna e nocciole. Una torta enorme che mi costerebbe tantissimo se comprassi fuori, ma che invece mi costa pochissimo facendola in casa. Non mi ricordo, Gabriella, se ci ha detto il suo budget. Il mio budget, guardi, io penso che sui 25 euro massimo a testa. Benissimo, auguri Gabriella, lei e la sua famiglia. Grazie a tutti voi. A presto, Sinigaglia, e qua ci dobbiamo abbinare del vino. Sì, sì, sì, sì, bellissimo menù senza regole, sontuoso, grandioso. Qui sicuramente in Piemonte non si fa fatica anche qui ad abbinare un grande rosso, un Nebbiolo Langhe magari, dai profumi avvolgenti. Volevo anche qui uscire un attimo da questa logica, perché quello che ha detto Valerio mi sembra molto interessante, l'ascoltatore che diceva io il vino me lo vado a prendere e l'imbottiglia da solo, sì. Ecco, questa cosa, al di là dell'imbottigliarselo da solo o meno, penso che abbia valore, magari la Coldiretti è d'accordo. Noi a volte ci affidiamo o andiamo a cercare i vini in un sistema già organizzato, mentre statisticamente a circa 30-40 minuti da casa nostra, e questo vale per tutta l'Italia, c'è un produttore di vino. Sarebbe interessante che questo Natale uno potesse andare magari con i figli da un produttore direttamente e comprare un vino, perché quel vino sarà molto più suo di qualsiasi consiglio che possiamo dare noi della Wine Academy. Infatti, e magari ci si diverte anche un po' di più piuttosto che andare al supermercato, prendere la prima bottiglia, esatto, anche se, come dire, il vino più autorevole dal punto di vista della marca che si possa presentare. Ma anche dal punto di vista economico penso che il viaggio valga il risparmio che si può avere. Bazzana, guardi, veloce perché sto chiudendo. Velocissima, sì, velocissima, ha detto una cosa importantissima l'ultima ascoltatrice. Gabriella. Fate piatti che vi permettano di stare seduti insieme ai vostri familiari. Tante volte il menù è così macchinoso che c'è chi cucina e chi si gode la festa. Esattamente. Invece è importante questo, anche perché stando a tavola potete gustare anche il vino. Grazie a tutti i suggerimenti di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina, i suggerimenti della Coldiretti. Non riesco a far intervenire Bazzana sul valore dell'andare ad acquistare direttamente il vino dal produttore, ma insomma non credo che ci sia bisogno di rafforzare ulteriormente l'importanza di questo messaggio. Adesso abbiamo le parole della previdenza. INPS, per saperne di più. Poi ci fermiamo, naturalmente anche con questa rubrica ritorneremo a gennaio, ma questa è una rubrica nata in collaborazione con l'INPS che andrà avanti ancora per molte settimane. La parola di oggi è lavoratori disoccupati e riforma. La legge 122 del 2010 non ha previsto alcuna salvaguardia particolare per i lavoratori che rivestono lo status di disoccupato. Pertanto, i lavoratori dipendenti disoccupati che raggiungono i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2010 potranno accedere alla pensione di vecchiaia a decorrere dal primo giorno successivo allo scadere dei 12 mesi, in base alla cosiddetta finestra mobile, come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. E abbiamo terminato anche la nostra puntata prenatalizia, grazie agli amici di Alma che sicuramente torneremo a coinvolgere prossimamente, gli amici di Coldiretti che torneremo a coinvolgere prossimamente. Io ringrazio Gaia Romani per la collaborazione in redazione, naturalmente tanti auguri anche ai ragazzi che lavorano con me, che hanno tanta pazienza con me per tutto l'anno e quindi meritatamente adesso si riposano anche loro. Grazie a Paolo Corleoni oggi in assistenza tecnica. Signori, Salvadanaio torna domani con un meglio di, la prossima settimana con delle puntate speciali in diretta. Noi ci risentiamo a partire dalle 3 gennaio. Buon Natale a tutti.